Buongiorno, buongiorno a tutte, anime connesse. Io sono Barbara e questo è Yogurt Acid Care per un secondo lockdown. Yogurt Acid Care è il mio progettino di yoga. Sono un'insegnante e praticante yoga e volevo qui condividere con voi alcune delle cosettine che mi aiutano a vivere in maniera più connessa, più radicata e più equilibrata. Quindi cercherò qua di condividere con voi una visione estensiva dello yoga, che per me è una cura sulla persona radicale, applicata in un contesto che è quello della nostra società matta e frenetica, iperurbanizzata, ipercapitalista, e non lo yoga decontestualizzato, visto come una pratica idilliaca, distaccata dalla società. Siamo al quinto episodio di questa serie dedicata al secondo lockdown che stiamo attraversando noi anime sfigate in zona rossa. Siamo di nuovo in balia di questi eventi, dei politicanti, dell'economia. Siamo abbastanza forzate a sopravvivere piuttosto che vivere. Il fine ultimo della vita dovrebbe essere equilibrio e gioia. E in questo anno 2020 siamo veramente limitate nelle nostre azioni, nelle nostre possibilità. Al di là di tutto questo non fa bene né alla testa né all'anima, tantomeno che al corpo. E quindi questo è il mio contributo di 14 giorni di mantra e pensieri che possono dare energia nuova alla nostra mente, alla nostra anima, carichi di prana, delle frequenze alte che ci attiveranno ogni mattina e aiuteranno a settare la nostra attitudine e il nostro mood ogni giorno. Gli episodi vanno in onda tutte le mattine alle 10 live. Vi sto parlando direttamente con un piccolissimo script e un sacco di freestyle. Chiaramente se vi perdete un episodio no problem perché sono subito in archivio, da brava vergine compulsiva. E sono in archivio di Radio Virus, ma sono anche nell'archivio del mio Mixcloud che è un po' più facile da navigare. Il mio Mixcloud lo trovate come mixcloud.com/barbara-mulas oppure sulla mia bio in Instagram, dove trovate anche un sacco di pratiche più corporali, mi trovate come Barbara La Mulas, tutto attaccato. Abbiamo già visto quattro mantra, oggi introduciamo il quinto e abbiamo già parlato dei sette interruttori per la felicità. Ne abbiamo parlato di quattro, in realtà li ho solo accennati e ho lasciato a voi la riflessione individuale. Oggi introduciamo il quinto. I mantra. Piccolo refresh per chi magari si dimentica o per chi non ha ascoltato gli altri episodi. I mantra sono considerati cibo per la mente e per l'anima. Letteralmente in sanscrito esistono due parole simili che definiscono una il cibo per il corpo fisico e una il cibo per il corpo energetico e mentale. I bhujan sono gli alimenti per il nostro corpo e i bhajan sono gli alimenti per la nostra mente e anima. I mantra sono dei bhajan, anche la musica è bhajan. Per esempio, questo raga che c'è qua sotto, si dice che i raga hanno una connessione diretta con l'emozionalità e piuttosto che significare in maniera razionale e verbale, sono associati a emozioni e colori. Per cui sono dei bhajan, hanno una connessione diretta con la nostra anima. Si dice che i mantra hanno una connessione con i pianeti, che muovendosi attraverso le 12 costellazioni creano 108 effetti e influenze sulla nostra vita, ed è per questo che un mantra in teoria andrebbe ripetuto 108 volte. 108 volte più o meno sono 15 minuti, 20 minuti, anche di più, e oggi e neanche nelle altre puntate non abbiamo recitato il mantra 108 volte, ma comunque almeno 3-4 minuti in modo che le frequenze e il significato possano riverberare all'interno di noi. Il mantra di oggi è Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Vediamo un po' che cos'è questo mantra, cosa significa, da dove origina, prima di andare a praticarlo. Quindi un piccolo contesto per capire, intuire più o meno il significato, il peso e quindi dargli un rispetto a quello che stiamo facendo perché non è la nostra cultura, non ce ne vogliamo appropriare, ma non ci vogliamo privare neanche di tutta questa potenzialità che è inglobata in questi mantra. Andiamo a capire da dove viene. Aham Brahmasmi è un aforisma, un mantra sanscrito, molto importante per la mitologia hindu. Viene dalla tradizione Advaita. Le prime tracce di questo mantra vengono dai Mahavakyas, che sono degli statements, anche qua degli aforismi molto brevi e carichi di significato all'interno dei testi sacri degli Upanishads. Aham è ricorrente nei mantra e significa I am, io sono. Brahmasmi significa, viene da, è una parola composta, Braham e Asmi. Braham è quell'energia universale, la realtà ultima. Quindi io sono in qualche modo divino, ma nel senso non un'individualità divina. Io sono quell'uno, l'energia universale. E ancora una volta si parla di ego, smantellamento dell'ego, unione di Atman, che è l'anima individuale, il sé individuale, con Brahman, l'assoluto. Questo mantra ancora una volta fa appello alla nostra umiltà nel riconoscersi come parte di una cosa più grande, più ampia, molto più estesa di noi. È un concetto molto molto molto sottile e utile adesso, soprattutto perché abbiamo la sensazione che stiamo soffrendo come dei cani. La mattina ci svegliamo e ci sentiamo miserabili perché la nostra vita è castrata, perché è un'altra sfida, un'altra giornata e chissà come andrà, chissà se riusciremo a fare le cose che ci interessa fare, probabilmente potremo farne solo alcune e questo ci crea una grande frustrazione e ci chiediamo: ma perché? Ma perché proprio a me questa sfiga? Ma perché? Allora ricordiamoci che siamo parte di una cosa più grande e questo pensiero, che non siamo sole come anime in questa sofferenza, ma è una condizione piuttosto globale, diffusa, per tutti diversa, ma in qualche modo ci accomuna. Questa consapevolezza ci può aiutare a riportare i piedi a terra. La testa va per aria, va a mille, piena di aria, piena di vata. Noi dobbiamo riancorarci al suolo. Se vogliamo sopravvivere a una bufera, dobbiamo essere flessibili su. Gli alberi flessibili sono quelli che si piegano di più al vento, ma estremamente radicati al suolo. Se abbiamo delle radici forti e dei rami flessibili, non ci romperemo. Ci piegheremo, forse rimarremo un po' stortini, ma non ci rompiamo. Considerando il significato di questo mantra, andiamo a praticarlo ricordandoci che la nostra sofferenza è lo specchio di una sofferenza più generale. Non andiamo a praticare autocompassione verso noi stesse, pratichiamo umiltà e quindi immaginiamo tutto l'universo che soffre pene simili e diverse dalle nostre. Per praticare, come al solito, cambierò il raga e inserirò una piccola musichina ambient molto più pacata. Thank you. Ci prepariamo alla nostra pratica. Se siamo appena sveglie, in generale, se siamo state ferme, ci muoviamo un po' con il corpo. Inspirando, strecciamo le braccia oltre la testa e facciamo qualche movimento laterale con la cassa toracica. Facciamo anche dei cerchietti con il petto. Sfondiamo un po' queste dorsali. Facciamo un paio di twist, quindi rivolgiamo una spalla verso il muro in fondo e poi l'altra, e se abbiamo la possibilità di muovere un po' il pelvis e le anche, facciamolo. Una volta che abbiamo fatto tutti questi movimenti e in qualche modo flessibilizzato le nostre articolazioni e il corpo, troviamo una posizione confortevole che sia seduta. O sdraiata con la pancia rivolta verso l'alto. Anime sedute, magari evitiamo di collassare con la colonna su un appoggio, ma sosteniamoci grazie a essa. Sfidiamo un po' questa gravità. Chiudiamo gli occhi e iniziamo questo percorso di meditazione breve. Iniziamo con un percorso yoga nidra per connettere il corpo, sensorializzarlo, rilassarlo. Agganciamo i sensi, ascoltiamo tutti gli appoggi del corpo con la superficie su cui è poggiato. Abbracciamo le sensazioni senza giudicarle. Né cercare un'interazione. Rivolgiamo adesso l'attenzione all'estremità del nostro corpo, più lontana della testa, i piedi. Sento ed espirando rilasso completamente i miei piedi. Poi sento la parte inferiore delle mie gambe, dalle ginocchia in giù, ed espirando la lascio andare per poi passare al rilassamento della parte superiore delle gambe. Lascio andare entrambe le gambe, le sento meno di prima, e rivolgo la mia attenzione al pube e all'addome. Espiro, dopo espiro, rilasso gli organi genitali e gli organi interni all'addome sino al diaframma. Poi sento il petto ed espirando, distendo completamente le tensioni dalla cassa toracica, dai polmoni, dallo sterno, dalle clavicole e lascio andare anche le spalle, portando i miei sensi alla colonna. E agli appoggi della mia schiena con il pavimento o qualsiasi sia la superficie su cui sono poggiata. Espirando, rilasso completamente la schiena, percorro ogni singola vertebra, arrivo al collo. Poi sento le braccia e distendo completamente con un espiro entrambe. Ascolto le mani, dorso, falangi, palmi, polsi, li lascio andare. Torno con la mia attenzione coi sensi, al collo e al capo. Sento i capelli uno a uno. Li rilasso uno a uno. Poi la superficie del viso. Con un espiro lascio andare le tensioni dalla muscolatura facciale. Rilasso la bocca. Dischiudo i denti e le labbra e lascio che il mio viso, espirando, sorrida. Ascolto le narici, l'aria, la temperatura, la velocità. Rilasso completamente le vie aeree. Poi gli occhi, le palpebre, le sopracciglia si distendono. Infine rivolgo la mia attenzione all'incavo tra le due sopracciglia, l'Ajna Chakra, il terzo occhio. dove accumuliamo tutte le attività neurali. Cerchiamo di espirare rilassando completamente questa parte del corpo per permettere nuove attività del pensiero. Eliminiamo tutto ciò che non ci serve più. Osservo il mio corpo dall'interno. Osservo il mio respiro, la mia mente. Introduco il mantra Aham Brahmasmi che pronuncio verbalmente o mentalmente durante l'espiro. Inserisco il mantra durante la lunghezza naturale dell'espiro, non forzo il respiro alla velocità della mia mente o del mantra. Posso pronunciarlo mentalmente, con un'intonazione, o anche a voce alta, con o senza intonazione. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Io sono l'energia universale. Aham Brahmasmi. Ognuno va avanti mentalmente a voce alta per sé. Quando sentirete una campanella, sarete invitati ad abbandonare il mantra. Aham Brahmasmi. Lentamente lasciamo andare il mantra. Facciamo qualche respiro più profondo per allentare le tensioni accumulate nel corpo. Lentamente risvegliamo il corpo se vogliamo o proseguiamo con la nostra meditazione come ci sentiamo più comode. Aham Brahmasmi. Mi piace questo mantra perché è connesso in qualche modo a quello di ieri, che era connesso a quello di avantieri. Non so se vi ricordate il piccolo brano che ho letto ieri, The Realization of Atman. Atman è il sé. E diceva: sono fatto della coscienza, di coscienza e gioia, non sono duale, sono puro nella forma, assoluta conoscenza, assoluto amore. Una essenza senza limiti, superiore consapevolezza, gioia senza confini, esistenza e gioia trascendentali sono l'Atman che si rivela in se stesso. Abbiamo tutto all'interno di noi. Infatti, il quinto switch per la felicità, dice, oggi mi ricordo di essere grata. Il concetto di gratitudine. I am grateful. Prima di tutto sono grata di essere ancora qui. Mi sono svegliata stamattina. Dai. Per cosa posso essere grata? Cerchiamo di portare questo pensiero durante il resto della giornata. Ed esprimerlo. Esprimerlo non significa ringraziare ogni singola cosa o persona, ma riconoscere questa gratitudine. Riconosciamola nelle cose più piccole, nell'aria pulita, se è pulita, che respiriamo, nel verde che ci circonda, nella gentilezza non aspettata di qualcuno. Nel nostro reagire a una cosa, ricordiamoci gratitudine. La puntata di oggi termina qui. Direi che ho parlato abbastanza e posso anche starmi un attimo zitta. Aham Brahmasmi, sono l'energia universale, mi tengo umile e sono grata nei confronti dell'universo. Ci risentiamo domani per il nostro giorno 6. Intanto io vi auguro una buona giornata, senza entrare troppo in sbatti con le contingenze non controllabili della nostra vita. Bevete acqua e fate cose sane, ovvero che vi fanno sentire bene. Ciao belle!